Allora, possiamo partire dagli slogan che nel 2006 sia l'Ulivo che i DS proponevano in relazione al referendum costituzionale relativo alle riforme che erano state introdotte dal governo Berlusconi. E vediamo, no? Ne vediamo, la Costituzione è un bene comune, è di tutti, è un patto di tutto il popolo italiano, non possiamo mettere mano, stravolgere ben 50 articoli della Costituzione, no? Contenuti nella parte seconda, perché cambiamo in questo modo l'intera Costituzione. Tutto molto giusto. Fortunatamente allora il popolo italiano rispose di no e quelle riforme non furono introdotte. Questi slogan dovrebbero valere anche oggi, perché la Costituzione continua ad essere un bene comune, un bene di tutti, un patto di tutto il popolo italiano. Ecco, una modifica della Costituzione, o sarebbe meglio dire una riscrittura della Costituzione, perché modificare 47 articoli su 139 vuol dire scrivere una nuova Costituzione. Non potrebbe avere origine se non da una nuova assemblea costituente, con parlamentari, con deputati eletti con sistema proporzionale, perché la Costituzione deve essere il frutto di una ampia condivisione tra le forze politiche, dovendo essa essere la casa comune, e quindi deve essere espressione piena della sovranità popolare. Sicuramente è abusivo il ricorso al procedimento di revisione di cui l'articolo 138, perché quel procedimento è espressione di potere costituito e non di potere costituente. Mi spiego meglio, è una questione di elementare grammatica giuridica. Il potere costituente è il potere che ha un popolo di costituirsi in Stato dandosi una Costituzione. Perché lo Stato non ha una Costituzione, ma è una Costituzione, come diceva giustamente Costantino Mortati, che è il più grande interprete della nostra Carta fondamentale. In quanto potere originario, è un potere sovraordinato a tutti gli altri ed appartiene al popolo e solo al popolo. Quindi un potere costituito non se ne può appropriare. Il potere costituito invece è il potere che la Costituzione attribuisce agli organi dello Stato ed è un potere quindi derivato e quindi sottordinato al potere costituente. L'esercizio del potere costituito, pertanto, non può trasformare il potere stesso da costituito in costituente, se non commettendo un atto abusivo, un atto, direi, eversivo a questo punto. Come ho detto, la modifica di 47 articoli su 138 è una modifica importante. Il procedimento di cui l'articolo 138 serve alle piccole modifiche, come insegnano tutti i testi di diritto costituzionale, almeno quelli scritti dai padri costituenti. Io ricordo sempre il Costantino Mortati, che è, direi, il testo fondamentale per comprendere a fondo la Costituzione. Ed è un procedimento che serve, dicevo, per le piccole modifiche, come ci ricordava anche Piero Fassino, sempre nel 2006, sull'unità. Molto, diciamo, il personaggio non è certamente a livello dei grandi padri costituenti, ovviamente per la cultura giuridica di questi, però, diciamo, il concetto è ben evidente. L'articolo 138 serve per le piccole modifiche. Se lo si utilizza per stravolgere la Costituzione, si commette un abuso, o addirittura per cambiarla la Costituzione, si commette un abuso ed è un abuso che lo stesso Mortati definisce come atto eversivo. Ed è, oltre un abuso, è un furto di sovranità popolare. Perché si sottrae alla sovranità popolare il potere costituente. Cambiando la Costituzione si trasforma un potere costituito in potere costituente, sottraendo questo potere al popolo. Ma quindi perché sia così importante rispondere no a questo furto di sovranità, quindi rispondere no al referendum costituzionale, bisogna capire che non si tratta di questo di un caso sporadico. ma si tratta del momento terminale di un più ampio ed enorme saccheggio di sovranità popolare che è stato progettato sin dai primi anni successivi all'approvazione della Costituzione, direi anche, e poi lo vedremo, durante, proprio nel processo della Costituente, e brutalmente accelerato nell'ultimo trentennio. Come ricordava prima Mauro, se passerà questa riforma costituzionale, i 47 articoli con cui verrà modificata la Costituzione saranno i 47 chiodi che verranno piantati sulla bara nella quale è stata deposta la nostra Costituzione. E sarà un momento, un passaggio irreversibile. Succede praticamente che nell'ultimo trentennio, giorno dopo giorno, le forze che Luciano Gallino definisce di finanzcapitalismo hanno sostanzialmente riscritto le regole del gioco, le regole di quel gioco che Giovanni Falcone chiamava il gioco grande del potere. Lo hanno fatto disattivando i principi fondamentali della Costituzione, imponendo di fatto una nuova Costituzione materiale e di conseguenza un nuovo assetto sociale, un nuovo concetto di legalità che non è più in grado di garantire i diritti, principalmente quelli sociali e quello fondamentale, quello del lavoro, ma che anzi li subordina alle esigenze del mercato e alla logica del profitto. Per capire il senso di ciò che sta accadendo, il senso complessivo di ciò che sta accadendo e tutte le tattiche molto sofisticate con le quali si stanno cambiando le regole del gioco, e per individuare anche le possibili forme di resistenza, bisogna risalire alla storia secolare del paese, alla quale noi abbiamo già accennato. Quindi bisogna capire appunto che l'Italia arriva alla fine della Seconda Guerra Mondiale in una situazione sostanzialmente di tardo, in una condizione di tardo feudalesimo, in cui noi vediamo una società costruita sul rapporto tra servo e padrone, una società nella quale il 10% della popolazione deteneva il 90% della ricchezza nazionale, non esisteva un ceto medio, circa l'80% della popolazione era analfabeta. Quindi avevamo una diseguaglianza economica che determinava uno stato classista in cui le classi dominanti imponevano le loro regole. Tutto questo, imponevano le loro regole, gestendo la legge e la giustizia a loro uso e consumo. Questo stato di cose, dicevamo, si protrae fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, viene esasperato durante il periodo fascista, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si creano le condizioni macropolitiche per poter finalmente fondare uno Stato democratico di diritto.